des yeux d'opale, qui me fascinait, il y avait le val de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale. Questa mattina riprenderò un tema che ha una connessione vivace con quello di ieri, il conflitto generazionale tra giovani e anziani, ma ci permette una rivisitazione di un universo che scoprimmo non molto tempo fa, grazie a un acuto osservatore della realtà metropolitana. Vi faccio una piccola introduzione per farvi capire quanto questa mattina ho avuto la profonda ispirazione e la conferma che questo sarebbe stato l'argomento del giorno. Anzi, già sul finire della serata di ieri ne ebbi conferma in uno dei più fulgidi e più proclamati spazi televisivi che rappresentavano l'insorgere giocondo, rubicondo e dinamico della novità. Questa mattina io mi trovavo in metropolitana, normalmente scendo alla stazione Repubblica, ma la stazione Barberini si è bloccata alla metropolitana. Degli istanti di panico, poi l'annuncio all'interno del treno: se c'è un medico a bordo, una persona si è sentita male in un vagone. Hanno aperto le porte, ci siamo tutti guardati in faccia. Non c'era medico nel mio scompartimento, c'era soltanto qualche zingarello, qualche straniero, qualche signora affannata, qualche signore addormentato. Però ho visto scattare alcune persone che vedo spesso, li vedo la mattina, li vedo in metropolitana, poi li vedo a piedi, poi li vedo passeggiare, l'incontro per tutta la giornata, li incontravo anche quando andavo a lavorare quasi all'alba, perché scendevano a frotte, invadevano la città, invadevano, era una pacifica invasione, erano gli Umarels. Dentro il mio vagone c'erano 4, 5, 6 Umarels che dalle zone periferiche della città si avviavano verso i cantieri del centro. L'Umarels è l'anziano che ha tanto tempo a sua disposizione, che passeggia con le braccia conserte dietro la schiena, che si muove alla ricerca di luoghi da commentare, di luoghi in cui può sottolineare e dignificare con il proprio dissenso, con il proprio disprezzo, e può incrementare con le proprie capacità, con i propri talenti, ad essere migliori. Quindi questi Umarels, in cerca di cantieri verso il centro, scesero in frotta dal vagone parcheggiato per emergenza alla fermata alla stazione Barberini della metropolitana romana e si avviarono verso il vagone dove la persona si era sentita male. Non c'erano medici in quel momento, anch'io sono sceso per decidermi a avviarmi a piedi da Barberini a Piazza della Repubblica per venire alla radio. Pioveva pure, quindi non ero proprio perfettamente contento. Ma ho gettato un ultimo fugace sguardo verso il vagone dove c'era la persona malata, infortunata. Non sono voluto entrare anch'io per guardare chi mai fosse, anziano, giovane, straniero. Non l'ho voluto sapere. Perché? Perché era circondato da Umarels. Gli Umarels in frotta avevano trovato questo spettacolo fantastico, meraviglioso. Erano tutti lì a dire: fategli il massaggio cardiaco, apritegli la camicia, stendetelo, alzatelo, tutti intorno, con le mani dietro la schiena, attorno a quella, non so bene, moribondo, senza che nessuno di loro avesse una reale cognizione di tipo clinico. Quello fu il primo assaggio di Umarels. Poi scesi, cioè uscì, salì lungo la scala mobile, affrontai la giornata, arrivai a piedi a un dipresso di questa redazione e passai per una strada laterale che mi porta proprio avanti alla radio, dove c'è un fantastico, meraviglioso e seducente mercatino, dove vendono frutta, vestiti, ma c'è il fantastico balcone con i cinesi che vendono il bricolage. E lì mi soffermai un attimo a vedere gli Umarels, c'erano 4-5, stanno tirando il prezzo di una specie di cacciavite con supporto stroboscopico, non so cosa mai ci facessero. Era un cacciavite con un'infinità di piccole punte e con una sorta di supporto calibrabile, non so cosa servisse, ma loro serviva, loro lo volevano. E stanno lì a tirare il prezzo con una cinesina che parlava come i cinesi dei film di Thomas Milan e vedevano se fosse possibile di coronare la loro giornata con questa gioia. Beh, oggi vorrei parlarvi del lato oscuro degli Umarels, questi personaggi che noi abbiamo visto, accennato, circoscritto, descritto, sono presenti nella nostra realtà. Sono presenti anche ai massimi vertici. Pensateci un attimo, non vorrei dire nulla di blasfemo, ma nei luoghi più eccelsi del potere politico, del potere religioso e delle autorità spirituali e civili ci sono degli Umarels. Siamo circondati da Umarels. Gli Umarels ci stanno dominando, gli Umarels ci guidano. Gli Umarels sono probabilmente il tessuto connettivo di questo paese. Tanto che ieri sera, come ho detto, guardando la televisione, guardando un programma televisivo che molto sta facendo parlare di sé questa mattina, vidi due rappresentanti della politica nazionale che con grande disdoro, con grande dispitto, con grande senso di appartenenza da una parte, senso di disperata rabbia dall'altra, erano lì a elencare i 10 punti di vista, secondo le loro convinzioni, del mondo visto da destra e visto da sinistra. Erano Bersani e Fini. Non entro in merito, non mi interessa, lo spettacolo era talmente noioso, era proprio soporifero, era il tipico spettacolo da Umarels. Gli Umarels che si vogliono sentire impegnati, gentili, buoni, e che una volta tanto non guardano i soliti programmi, i documentari con gli animali che si ingroppano, hanno guardato quel programma. Ma se prendiamo un attimo una maligna e senz'altro malevola estrapolazione che ha fatto Fabrizio Intonti questa mattina dei due discorsi di Bersani e di Fini, avremo la certezza che anche in loro cova profondo, indissolubile, indelebile il germe dell'umarellaggine. Il lavoro è la dignità di una persona, sempre. E soprattutto quando hai 30 anni hai paura di passare la vita in panchina. Per la destra sono innanzitutto generosi i nostri militari che in Afghanistan ci difendono dal terrorismo, come lo sono le centinaia di migliaia di connazionali, donne e uomini, che ogni giorno e gratis fanno volontariato per aiutare gli anziani, gli ammalati, i più deboli. Danilo Maso Masotti, buongiorno. Buongiorno. Danilo Maso Masotti è l'artista metropolitano, l'osservatore attento della realtà suburbana che ha coniato, inventato, portato alla luce, identificato, isolato il germe dell'umarellaggine. Ha scritto ben due libri sugli Umarels, il secondo uscito poco tempo fa, ha un fornitissimo blog, Umarels, splinder.splinder.com, dove aggiorna momento per momento, anzi a tempo reale, quelle che sono le mosse degli Umarels, come se noi fossimo circondati da questa sorta di fatale condizione umana attraverso cui tutti necessariamente passeremo se non arriva un fulmine salvifico che ci stronca sul far della giovinezza. E quindi degli Umarels questa mattina parleremo. Prima tua lettura, prima ancora di andare avanti e osservare quello che è il lato oscuro dell'umarellaggine questa mattina vorremmo toccare, trovi tracce di Umarel in Bersani e Fini nel loro discorso? Beh sì, tantissimo, tantissimo. Allora, per prima cosa, Bersani e Fini conoscono molto bene il mio territorio di caccia degli Umarels, che è Bologna, l'Emilia Romagna, e quindi loro rappresentano... Sono geneticamente, diciamo, figli della terra degli Umarels, diciamo la verità. Figli della terra degli Umarels. Bersani, ecco, è molto più rappresentativo degli Umarels, mentre Fini rappresenta l'altra tipologia antagonista degli Umarels, che qua io chiamo Geronto Zanari, che sarebbero Geronto Paninari, per dare un tono più capibile di questi. Quelli che non mollano l'aspetto esteriore, ma hanno già delle stigmate indelebili l'umarellaggine, come i vestitini facis, come le cravatte rosa, come i capelli tinti. Sì, però c'è una differenza proprio, perché allora gli Umarels, diciamo quelli di Bersani, una volta che vanno in pensione non ci pensano proprio di tornare a lavorare, ecco, sono quelli che appunto il vero Umarel classico che lo vediamo in giro a guardare i cantieri. Penso questa mattina alla felicità degli Umarels dentro la metropolitana A, che avevano un moribondo sott'occhio su cui dare consigli. Invece l'Umarel, diciamo più l'Umarel quello Geronto Zanaro, invece una volta che va in pensione al venerdì e al lunedì è consulente della stessa azienda, ecco. Ecco, Bersani ha nominato la panchina, dice sì. Questi giovani che ha 30 anni hanno terrore della panchina. La panchina è un luogo fisico che si rapporta fortemente con lo spirito Umarel. Da una parte è il loro luogo di ritrovo, è il loro punto focale, è una sorta di psicogeografia sotterranea delle città viste dagli Umarel, è il luogo in cui si radunano. D'altra parte è soltanto la base di partenza delle loro scorribande urbane. Sì, esatto, è un punto di ritrovo, cioè un punto di ritrovo come per magari per altre generazioni può essere trovarsi su una chat, trovarsi su un forum, trovarsi su Facebook. Loro si trovano nelle panchine, poi da lì tramano, discutono cosa fare e dopo agiscono oppure vanno in giro a osservare quello che fanno gli altri. È il social networking fatto nei giardinetti, nelle zone periferiche. Dunque, sì, quanto è multitask l'Umarell? Perché poi dobbiamo cominciare a entrare nel vivo, cioè nel senso, quante vite può vivere contemporaneamente, quante operazioni svolge? Tu hai già identificato, prendendo ad esempio i due Crypto-Umarell, Fini e Bersani, ma potremmo elencarne chiunque. Adesso, anche con tutto il rispetto con cui posso dirlo, soltanto una mia analisi estetica, anche il Presidente della Repubblica quando torna dalle vacanze con le scarpe da ginnastica e sopra il vestito blu è Umarell con quel cappello Panama. Il Presidente della Repubblica Italiana deve essere un Umarell. Con rispetto bisogna dirlo, però certo, esteticamente certo. Ha i segni esteriori perlomeno nel vestirsi dell'Umarell. Sì, Umarell, ma anche la tipologia di vacanze lunghe, cioè l'Umarell non fa la vacanza interinale, il weekend, la cosa che va nello stesso posto da 50 anni. Sì, fa la villeggiatura, che è diverso, insomma. E mi dicevi invece il multitask degli Umarell, sì. Sono diverse azioni. Allora, la prima è essere il primo della fila, non importa quale. Ecco, questo è uno dei primi step dell'Umarell. Altre cose è fare la spesa minimale, cioè non riempire il baule di un monovolume, ma praticamente andare con un sacchetto e metterci dentro quello che serve per arrivare a sera. Anche poi per avere un'occasione per uscire la volta dopo, sennò che si fa? Se si fa la spesa, esatto, per due giorni? Se no, dopo cosa fai tutta la settimana? L'osservazione dei cantieri, cioè il gioco delle carte, dove gli Umarell più bravi giocano, quelli meno bravi invece stanno solamente a osservare e imparano, e poi c'è, pranzi a orari dignitosi, cioè verso mezzogiorno, così, pennichella pomeridiana, pomeriggio in giro per avventure, adesso che le giornate sono un po' più brutte, usano le panchine, sì, ma quelle dei centri commerciali, che sono più caldi. Il centro commerciale è il non luogo per eccellenza, perché è condizionato l'estate, quindi l'aria è buona, è riscaldato d'inverno, quindi una ricostruzione artificiale, come negli Emirati Arabi che fanno quelle meravigliose costruzioni dove si scia in mezzo al deserto. Ecco, gli Umarell hanno, come gli sceicchi degli Emirati, il loro centro commerciale che è climatizzato all'optimum della loro possibilità di esistenza. Allora, 800 24 00 24, vi abbiamo dato un assaggio dell'argomento di oggi. Quanto siete Umarell? Quanto vedete in voi il germe dell'umarellaggine? Quanto siete circondati, tartassati, vilipesi dagli Umarell? Questa mattina è una trasmissione molto coraggiosa. Mentre il paese sta pensando alla crisi di governo, noi pensiamo a una profonda crisi esistenziale che attanaglia ogni italiano. Lo spettro dell'Umarell che incombe su di noi. Anche se possono dormire fino a tardi, gli Umarells si svegliano presto. Fanno una colazione abbondante, si vestono e escono. Nessuno sa per quale inspiegabile motivo si comportino così. Si sa solo che gli Umarells hanno bisogno di vivere la mattinata nella sua totalità, riempiendola di azioni a volte insensate, a volte no. Stiamo cominciando a entrare nella lettura classica di Danilo Maso Masotti e l'Umarell, perché per capire quello che è il lato oscuro che vorremmo cogliere questa mattina bisogna capire chi siano gli Umarell nella loro accezione perlomeno più banalmente visibile da tutti. Mario, buongiorno. Buongiorno. Lei è interessato a avere notizie sugli Umarell? Sì, ne so poco, però sarò un aspirante Umarell. Lei quanti anni ha? Io 50. Quando cammina per strada come tiene le mani? Dietro la schiena. Naturalmente. Quello. Sono un ammiratore, in effetti, dei lavori stradali, dei cantieri. Ho invidiato molto mio cugino che abitava sopra i lavori della metropolitana, nella casa. E l'andava a trovare per assistere da sopra, a vedere bene questi lavori mostruosi. Ma quello che mi chiedo è, insomma, fanno una bella vita. Fanno certo. La villeggiatura e non le vacanze tutti insieme, il weekend affollato. Ma certo, l'Umarell alla fine è l'equazione esistenziale più felice per l'essere umano. Danilo Maso Masotti, questo ascoltatore, la risposta è già data per scontata. Lui è già Umarell probabilmente dalla nascita, però se vuoi aggiungere qualcosa. Beh sì, cioè lui parla di una cosa, di un concetto molto importante, che è l'invidia nei confronti degli Umarels, l'invidia del tempo libero che loro hanno a disposizione, magari noi non abbiamo. Ecco, questi Umarels poi cosa rappresentano magari? L'estetica dell'Umarels rappresenta la pensione, l'ambito traguardo. A cui nessuno di noi arriverà. Poi quando sarò in pensione vedrai che potrò fare tutto quello che non ho fatto prima. Ecco, è questo, è per questo che magari l'Umarel suscita queste invidie. Però c'è un fatto, diciamolo subito, quindi ci togliamo il peso. Noi abbiamo una rappresentazione, per essere equanimi, di un Umarel che non demorde, perlomeno nelle vulgate dei giornali, in chi lo attacca, il nostro Presidente del Consiglio, che ha l'età fisiologica dell'Umarel, però mantiene sia con interventi estetici radicali, sia con l'ostentazione di un libertinaggio che va oltre la sua età anagrafica, presenta un lato inedito di l'Umarel. È l'Umarel trombatore, che in realtà mi sembra che sia in sé una contraddizione. L'Umarel mi sembra di una castità adamantina, perlomeno in quello che vuol far vedere. Ma infatti il presidente Berlusconi è più un Geronto Zanaro, che è un'altra tipologia di Umarel, cioè è l'antitesi dell'Umarel. È l'Umarel che non accetta la sua età, mentre gli Umarels invece accettano l'età e perché sono appunto anziani, si sentono anche in diritto e in dovere di darti dei consigli. Ecco, ma il Geronto Zanaro spalmato nella realtà quotidiana, dove si produce? Cosa fa? Nel bar e si vanta che si è fatto le babysitter ai giardinetti? Cioè qual è il rapporto tra la splendida rappresentazione dell'uomo politico potente che ha tutte le donne più belle del mondo e il Geronto Zanaro che nella sua minima realtà di quartiere o di circoscrizione cerca di fare la stessa cosa? Beh, il Geronto Zanaro frequenta il bar diciamo più figo, non si mischia con gli Umarels. Il Geronto Zanaro non tiene le mani dietro la schiena, ma le tiene rigorosamente in tasca, e poi al Geronto Zanaro dei passatempi tipo andare a teatro e mostrare la moglie impellicciata e uscire e mostrare questa moglie tipo trofeo. Il Geronto Zanaro viaggia, l'Umarel diciamo è più stanziale. Il Geronto Zanaro diciamo magari che è il tipico bersaglio delle bielorusse ucraine che vengono alla ricerca di Geronto Zanari. Sì, poi c'è il Geronto Zanaro, diciamo che è la deriva della tradizione umarellica. Sentiamo Paolo. Paolo, buongiorno. Sì, buongiorno, chiamo da Pavia. Sì, io verifico che ci sono anche oltre gli Umarel, le Donnarel. Ah, Dio, ha detto qualcosa che assomiglia a una bestemmia. Non si dice Donnarel. Vabbè, Dunarel. No. Scusami, Danilo, rettifica. Allora, qua su questo è aperto ancora un dibattito, comunque quale chiamiamo le sdaure, le signore, da arsdaura, reggitrice. Che sono terrificanti. Andiamo avanti, Paolo. Comunque, capito, sono le sdaure. Sono pericolosissime, perché se tu vai in giro col cagnolino che per caso lo fai pisciare, lo lasci un attimo senza guinzaglio, queste si fermano, non hai capito, davanti a casa tua con aperto il cancello, dicono ma qui c'è un cagnolino, interviene Vigili Urbani, piuttosto che, capito, vai in giro col bambino di 7 anni a un metro da te, queste lo fermano, scusa ma dov'è il tuo papà? Ma queste le dovete mettere in galera. Beh, ne esageriamo, fanno parte del colore urbano, vanno osservate, nessuno deve essere messo in galera. Questi sono esiti, appartengono anche a noi, guardi, le nostre madri sono sdaure, le nostre mogli lo saranno da qui a qualche minuto, sì. Noi stessi faremo la bavetta per delle sdaure in un momento della nostra vita, osserviamole con rispetto e con reverenza, però difendiamoci se possibile. Mandiamole in giro loro col guinzaglio. Beh, adesso lei sta facendo il cinico, un'altra figura che non appartiene comunque al nostro stile. Noi siamo degli osservatori. Ci fermiamo soltanto un istante, vedo che l'argomento è quanto mai vivacemente seguito. 800 24 00 24, siano Umarels o siano sdaure, dateci le vostre segnalazioni e soprattutto diteci con profonda e sincera coscienza quanto siete sulla strada dell'umarellaggio. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se s'est... Melog 2.0. Una storia di abusi che arriva da un piccolo centro in provincia di Palermo. La vittima è un bambino di appena 7 anni. Il mostro è un lontano parente, un pensionato di 67 anni al quale il bimbo era stato affidato in un paio d'occasioni durante le vacanze di Natale. Per 2 volte avrebbe abusato di lui, offrendo in cambio del suo consenso e del suo silenzio caramelle e pochi centesimi. La pensione non gli bastava più e così aveva deciso di cominciare a spacciare marijuana nei giardinetti del centro storico della città. Riforniva anche i minorenni. Lo hanno scoperto gli uomini della Guardia di Finanza che, non senza una certa sorpresa, hanno arrestato a Catania un pusher di ben 67 anni, Michele Bonvegna, e denunciato... 800 24 00 24, entriamo nel lato più doloroso della nostra trasmissione, ma necessario per dovere di cronaca, del lato oscuro degli Umarelli. Dato per scontato che tutti diventeremo Umarels, dato per scontato che forse chi parla già lo è, Umarels o Gerontozauro o non so bene quale sottocategoria, comunque appartiene a questo ceppo formidabile di umanità, che è l'umanità che per una sorta di accanimento terapeutico ha ancora una grande voglia di vivere, una grande voglia di esistere, una grande voglia di affermare la propria autorità. Alcuni Umarels riescono ad affermare la loro autorità fino a tardissima età, perché sono privilegiati, perché hanno saputo ben investire la loro protumarellaggine in germe sin dalla nascita e quindi hanno possa di osservare un grande cantiere sin all'età più avanzata. Il grande cantiere è l'umanità che si muove, che laboriosamente si ha da fare, ma sempre in maniera sbagliata secondo il punto di vista. Altri umarelli non ci sono riusciti e sono gli osservatori arrabbiati l'umanità. Ma rispetto all'aspetto criminoso, dobbiamo dire che gran parte dei crimini più efferrati, che hanno fatto parlare i giornali, che comunque hanno appassionato Umarell e non Umarell nella loro riedizione televisiva, l'Umarell fa la parte da padrone, perché l'Umarell in realtà ha una sorta di preparazione militare, disprezzo del pericolo, di virile atteggiamento da guerriero che ormai si è perso nelle generazioni più giovani. Anche la tipica postura dell'Umarell, le mani conserte dietro la schiena, è la posizione di riposo del fantaccino. Nessuno ha fatto più il militare da almeno tre generazioni. Però vi ripeto, la posizione attenti e riposo, il riposo, le truppe, i fanti, la fanteria, le burbe da ramazza di caserma, lo fanno tenendo le mani in quella posizione dietro la schiena. Poi sono venuti di moda i corpi scelti, para, che hanno la posizione di riposo con le mani molto più alte, all'altezza delle scapole, posizione molto più guerriera, molto più virile. Ma l'Umarell è rimasto segnato dal servizio militare, è in posizione di eterno riposo. Nel blog di Danilo Maso Masotti, che è l'inventore, l'osservatore, l'ideatore e colui che ha scoperto come i germi della penicillina gli Umarell nella nostra società, autore di vari libri, Umarells del 2007, edizioni Pendagon, Il codice Bologna guida i luoghi fatti a persone in una metropoli provincia, 2010, edizione Pendagon, ha delimitato questo disprezzo dell'Umarell per tutte le situazioni legate al crimine, al rischio negli Umarells e rapine. C'è la documentazione fotografica di una rapina a una farmacia a Castenazzo. Tutti scappano i clienti, l'unico a rimanere è l'Umarell. Assistere di persona, scrive Masotti, a una rapina è esperienza ambitissima dagli Umarells. Durante la rapina, la famosa farmacia di Castenazzo, tutti i clienti scappano, tranne l'Umarell, che nella tipica postura osserva i concitati eventi in prima linea, si gode l'intervento dei carabinieri e l'arresto dei rapinatori. Danilo Maso Masotti, entriamo nel vivo. L'atteggiamento dell'Umarell di fronte al crimine, sia come osservatore che come protagonista. Allora, questo che hai appena descritto è l'atteggiamento passivo che è tipico dell'Umarell. Nel blog, oltre alla fotosequenza di Repubblica, c'è addirittura il video ed è pazzesco come l'Umarell abbia osservato questa rapina in farmacia, luogo tipico degli Umarells, sì, frequentatissimo, e abbia guardato tutto, cioè proprio dall'arrivo dei rapinatori, lo scasso della cassa e l'intervento dei carabinieri. Questo è fantastico. Invece, tra gli Umarells, diciamo, più famosi della tipologia attivo, ahimè, abbiamo il signor Olindo e la signora Rosa, famosi per la strage di Erba. Lei della Sdaura ha tutti gli elementi, devo dire. Lei è la Sdaura e sicuramente, cioè, la mente è quella che ha diciamo detto all'Umarell: oh dai Olindo, fai qualcosa. Un altro atteggiamento Olindo tipico dell'Umarells, che denota questa sua particolare predilezione ai fatti di sangue, quando c'è un incidente stradale e che si fermano tutti attorno o se hanno la loro macchinetta rallentano il traffico per guardare cosa è successo, per vedere gli spezzatini e la carne tritata, che a loro forse diverte tanto. Sì, loro guardano, è matematicamente provato che dove c'è un incidente stradale ci sono degli Umarells, però spesso, ecco, possono fornire delle indicazioni alle forze dell'ordine sulla dinamica dell'incidente. e di solito collaborano. Antonio, buongiorno. Antonio, buongiorno. Lei è una vittima degli Umarels? Sì, sì, io sono una vittima decisamente. Io faccio la nettezza urbana, servizio di nettezza urbana, mi alzo presto, comincio la mattina alle 5 e alle 6 e mezza, alle 6 ti vai a pigliare un caffè. E regolarmente trovo un Umarel col giornale in mano che discute con l'altro Umarel, uno c'ha il giornale locale, l'altro la gazzetta, e tu non puoi mai leggere il giornale perché non... dagli un'occhiatina, perché poi dopo devi continuare il lavoro, mentre loro sono lì che insomma che discutono del programma televisivo che hanno visto la sera con sto giornale in mano e non mollano il giornale. E non mollano. Senta, il rapporto fra Umarels e il cassonetto della spazzatura per loro è un luogo pieno di misteriose, esatto, oggetti. Più che il cassonetto, c'è il rapporto dell'Umarel con l'isola ecologica, dove ci sono i container, allora quello è il regno dell'Umarel. Ci sono proprio frotte di pensionati o umarelle di varia umanità e provenienza, che proprio per loro è il paradiso, ecco. Gli orari di apertura dell'isola ecologica per loro sono veramente quegli orari dove veramente... È anche un'occasione per biasimare i comportamenti delle persone, buttano via oggetti ancora usabili. C'è la morale e poi portano a casa, no? Prima c'è questo sdegno per questo spreco di materiale, poi loro portano a casa, non si sa dove mettono perché... Danilo Masomasotti, l'Umarel ecologico, l'Umarel riciclatore, l'Umarel raccoglitore differenziato? Sì, l'Umarel, cioè, appunto, contro lo spreco, raccoglie e poi porta in un luogo umarellico che è la cantina o il garage, e poi lì assembla, monta, un po' come gli smanettoni che smanettano col PC, installano, disinstallano, ecco, l'Umarel invece costruisce. Ecco, a proposito dell'Umarel bricoleur, l'Umarel che ha un garage, dell'Umarel che ha una manualità molto spiccata, noi abbiamo nella cronaca degli ultimi tempi, con poi varie ampie smentite, avuto perlomeno allucinata definizione del perfetto lato oscuro dell'Umarel. Ieri abbiamo pulito le alberi dell'olivo con la scopatrice, con un amico, mi sono dimenticato un cacciavite, che per i cacciaviti si è trovata questa fortuna. Come sono sceso dove avevamo parcheggiato stamattina, ho visto una cosa della burgecchiatura e mi è venuta una cosa al cuore. L'ho preso in mano, ho telefonato a mia figlia. Ma lei l'ha riconosciuto subito? Ecco, Danilo, ti avevo chiamato perché questa era una delle prime tante dichiarazioni, poi sempre smentite, poi sempre risovrapposte, altre dichiarazioni di Michele Misseri, lo zio di Sara Scazzi, che al tempo perlomeno in cui sembrava chiaro e certo, ma ancora la vicenda è apertissima, quindi ogni cosa che diciamo può essere contraddetta dopo un istante, l'assassino della nipote, però aveva tutte le caratteristiche dell'Umarel. Ricordi, ci parlammo, diciamo, guarda, è un perfetto crimine umarellico. Sì, sì, è un perfetto crimine umarellico, cioè le caratteristiche c'erano tutte, e poi c'era un altro elemento che piace molto agli Umarels, che è la campagna, infatti anche in uno degli ultimi discorsi di un Umarel famoso, che è Benedetto XVI, ha detto appunto torniamo all'agricoltura, per far avvicinare anche... Insomma, sì, anche qua con massimo rispetto, però devo dire che cioè non sono le persone che noi citiamo eccelse a essere Umarel, è che le caratteristiche che tu hai elencato, trovato, evidenziato ed estratto dall'umanità di ognuno di noi, in realtà sono presenti in varie fasi della vita, nell'uomo normale, ma anche nell'uomo eccelso. Sì, il ritorno alla campagna, di cui parlai anche ieri in trasmissione, tra Giuseppe De Rita e tra il Papa, è una tipica lettura umarellica. Basta, sì. Abbandoniamo questo caos distruttore di ogni valore e torniamo alla campagna. Sì, vedi, poi si torna al discorso dell'osi ecologica, basta sprechi, basta circondarci di oggetti che non ci servono, siamo all'essenziale e quindi torniamo alla campagna. Infatti credo che il futuro sarà lavorare da casa in campagna con le galline nella stanza, ecco. 800 24 00 24, continuate a chiamare, ci sono molti ascoltatori in linea, darò possibilità a loro di esprimersi. Il tema è l'umarellaggine. L'umarellaggine è una categoria trasversale dell'umanità che attraversa i grandi valori assoluti, le piccole meschinità di ogni uomo, ma sono condensate, rappresentate ed gloriosamente impugnate da una categoria umana che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Era un anno e più che si era fidanzati e arrivò il momento di sposarsi, ci si voleva bene. E questa nonna fu un brutto giorno, la trovai in compagnia di un altro. E io ero geloso, gli volevo bene a questa donna. Lei la cominciò a dirmi: guarda, mi ha preso per forza, picchialo, picchialo. Andai per tirargli due pugni io. E questo che era un pezzo d'uomo più grosso di me, e mi agguantò per il collo, mi stava strozzando. E io fruga trovavo il coltello in tasca che tutti i contadini si porta per le piante. E ci diventa qui maledetta portata, se non l'avevo non era successo nulla. E da quella porta un po' non riportavo in tasca più nemmeno un chiodo io, un maledetto tante volte. Ovvero! 800240024, stiamo entrando nel vivo e nel doloroso mondo del lato oscuro degli Umarelsi. Questo è un racconto di Pietro Pacciani, per lungo tempo identificato con il mostro di Firenze, che racconta un episodio, un proto-episodio rispetto poi alle vicende che lo hanno fatto passare alle cronache. Quando lui da giovane aveva una fidanzata, la trovò un giorno sotto a un suo rivale, un omone grosso, tirò fuori il coltellino da innesto che aveva in tasca e lo accoltellò. Danilo Masomasotti, che ha isolato il virus dell'umarellaggine, cominciamo a parlare di Pacciani Umarell, ma in questa fase mi interessa il Pacciani bricoleur con il coltellino in tasca che lo usa per accoltellare un rivale. Beh, vabbè, allora qua vediamo appunto questa caratteristica dell'abilità appunto nel manovrare degli utensili, ecco, questa è una tipica attività umarellica. Pacciani anche ecco, Pacciani era proprio estetica Umarell, estetica The Dark Side of the Umarell. Io all'epoca avevo dedicato anche una canzone, Pacciani era un bravo uomo, perché cioè non ho mai creduto nella colpevolezza di Pietro Pacciani. Facciamola era, sentire un attimo. Siccome sbatti l'Umarell in prima pagina. Abbiamo un contributo sonoro di questa tua produzione passata, la faccio soltanto sentire per dare prova testimoniale del fatto che tu analizzavi comunque da garantista dell'umarellaggine anche il caso Pacciani. Ovvero! Maremma bucaiola, e lasciatemi stare, non ho fatto nulla, e sono andato solo a cambierebbero, e dai, non fate i pischi. E voglio solo tornare dalla mia moglie Angiolina, e nonostante la media delle badilate nel capo, non è sempre la mia moglie. Noi siamo qui per darvi una testimonianza, siamo qui per parlarvi di un uomo accusato ingiustamente di crimini assurdi. Beh, noi siamo qui per dirvi che non è vero, perché noi siamo andati a trovarlo in carcere e ci siamo trovati di fronte a un individuo dal comportamento esemplare. Veramente. Ma davvero sei andato in carcere a trovare Pacciani, Danilo? No, ovviamente no, però a risentire il testo di tutta questa canzone, cioè, praticamente riviviamo, cioè, nella storia di Pacciani è uguale a quello che vediamo adesso con i vari Umarell cattivi, tipo lo sono andato a trovare in carcere, mi sono trovato di fronte a un individuo sensibile, veramente una gran brava persona, sono i discorsi che fanno appunto questi avvocati. Allora aggiungo adesso un altro esempio storico proprio legato al caso Pacciani. Mario Vanni, l'ex postino di San Casciano, fu il coniatore di quella frase felice che poi è stata usata fino al logorio, i compagni di merende. Mi dica, come io non ho diritto a parlare. Sì, lascia lì, di che la vuol dire Vanni? Sì, lo dico. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Poi ci sarà il signore che punirà il signor Canessa, con un malasso inguaribile. Vivi duce il lavoro e la libertà, ritorneremo prima o dopo. Allora Danilo, è importantissimo l'aspetto di questo brevissimo testo. Vuole la libertà per andare in farmacia e andare a lavorare. Esatto. poi l'hai sentita la fattispecie. Poi augura un colpo terribile a quello che lo ha accusato, probabilmente adesso non ho sotto mano gli atti processuali, colui che lo incastrò come compagno di merende. In realtà però morirà in carcere a 82 anni perché è stato condannato all'ergastolo. Ecco, in vario anni trovi ancora più chiaro l'esempio di Lumarel invischiato nel suo lato oscuro? Sì, Lumarel invischiato, ci sono vari aspetti, quindi abbiamo l'aspetto dell'osservare le coppie appartate. Abbiamo la location, che è la campagna, quindi come vedi... Che equivale ai lavori in corso in una città, non essendoci lavori in corso in campagna, vanno a vedere le coppiette che si accoppiano. Sì, in campagna ci sono altri svari, oppure vanno, non so, a prendere i fichi nel campo dell'altro contadino, a raccogliere dei frutti, insomma, la vita di campagna che comunque è quella offre, secondo me, molti svaghi agli Umarels. E poi c'è un'altra componente umarellica di politica retro, infatti lui alla fine... Viva il Duce, se torneremo! Sì, questi messaggi qua così, insomma, cioè, nella Toscana rossa, cioè, insomma, c'è una cosa... Sono molto... Quindi sono totalmente anticonformisti, nella Toscana rossa l'Umarel beccato inneggia comunque a colui che fu. Renato, buongiorno! Ciao! Renato! Sì. Pronto? Sì, sì, sto ascoltando la sua vicenda. Allora io volevo raccontarti della mia vicenda che mi ha perseguitato per mesi e mesi e poi alla fine mi sono tolto la soddisfazione di gambizzare uno di questi Umarel. Beh, ma è un crimine quello che stai confessando. Sì. Si tratta di un episodio che per mesi mi portava via il sonno perché alle 5 della mattina il cane che stava di fronte a casa mia abbaiava sempre e costantemente, tutte le mattine verso le 5 e mezza. E perché abbaiava il cane? Il cane abbaiava, l'ho scoperto dopo mesi, perché ovviamente io mi svegliavo e non capivo perché il cane abbaiava. Uscivo, non vedevo niente, ovviamente il cane che abbaiava e basta. Poi ho scoperto, alzandomi prima, che c'era un Umarel che portava a spasso il suo cagnolino alle 5 della mattina. Io, pressato da mesi e mesi, in cui il sonno ovviamente era disturbato, ho preso la fionda e la mattina successiva l'ho atteso e dalla mia finestra ho fatto centro sulle sue gambe. Vabbè, gli hai spezzato una gamba, cioè con l'osteoporosi, la debolezza, la carenza di calcio, Umarel gli hai sfratturato un ginocchio. No, fortunatamente non si è preso solo una bella botta. Ma cosa hai tirato? Un bullone del 22, una biglia di acciaio o semplicemente, non so, una pallina di gomma? No, un sasso, solo avevo raccolto alcuni sassi di dimensione giusta e ho però fatto... Però non si fa questo, non è una bella cosa, perché quando hai rotto il menisco Umarel, poi questo è un crimine, dai. Ho mirato i polpacci. Mirate i polpacci, che vuol dire? È un atto criminoso questo. Sì, sente ammetto, qualcuno, ammetto è una notizia criminis e ne dovrei rispondere. L'ho fatto pressato dalla... Sì, c'è un'esasperazione di fondo che può essere un attenuante, ma il gesto criminoso della gambizzazione di Umarel io non posso condividerlo, anche se in cuor mio la situazione da un punto di vista estetico ha un suo carattere drammaturgico. Andrea. Pronto, buongiorno. Scusami, Andrea, che mi sono accorto adesso che hai aspettato tanto tempo, chiedo scusa veramente. Sì, non importa. Però dimmi il tuo punto. Io lavoro in un supermercato e voglio segnalare che l'Umarel ha sempre fretta, perché probabilmente vede avvicinarsi la sua dipartita fisica e quindi arriva prima dell'orario di apertura del negozio, tampona le porte che ancora non sono sbloccate con il carrello nella speranza di un'apertura anticipata per poi correre, arrivare per primo davanti al banco del pane e spendere delle cifre variabili tra i 40 e i 60 centesimi. E se malauguratamente c'è a fianco una signora che è indaffarata perché deve portare i bambini a scuola e deve andare a lavorare in fabbrica piuttosto che in ufficio, non c'è verso, lui deve passare per primo. E l'Umarel ancora più fretta in luoghi tipici come la farmacia e il medico. Perché lui ha anche una supposta glicerina, è un farmaco salvavita nella sua visione dell'esistenza. Comunque Danilo Masmasotti, vedo che il tema è talmente ricco, talmente sfaccettato e c'è una tale competenza tra il nostro pubblico che preparati, presto torneremo sugli Umarel perché non abbiamo affatto esaurito questa fantastica osservazione. Grazie Fabrizio Intonti, grazie Valerio Rocchetti, grazie agli Umarel che ci hanno silenziosamente ascoltato e spero maledetto. A domani. On a continué à tourner tous les deux enlacés. tous les deux enlacés.